Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Namibia con Alessia Gazzola. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo, né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati. È il virus del viaggio, malattia sostanzialmente incurabile. Con questa frase di Kapuscinski, scelta proprio dalla mia compagna di viaggio di oggi, Alessia Gazzola, partiamo per una meta che, non ho dubbi, ci rimarrà dentro anche al nostro ritorno, la Namibia. La Namibia è un giovane stato indipendente dell'Africa meridionale, che confina a nord con l'Angola e lo Zambia, a est col Botswana, a sud col Sudafrica, a ovest si affaccia sull'Oceano Atlantico. La Namibia è seconda al mondo, dopo la Mongolia, per minore densità di popolazione. In un'estensione di circa 825.000 chilometri non vivono nemmeno 2 milioni di persone, di cui 300.000 nella capitale, Windhoek. Il vasto deserto del Namib e quello del Kalahari rendono il territorio prevalentemente arido, con clima asciutto e precipitazioni scarse. Sebbene la lingua ufficiale sia l'inglese, la metà degli abitanti della Namibia parla lo Shiwambo come madrelingua, mentre l'Afrikaans resta la lingua più compresa. L'82% della popolazione appartiene a etnie del gruppo Bantu, il resto si divide in boeri, anglosassoni, tedeschi e di origine mista. Religione cristiana, di dottrina luterana, con una piccola minoranza di musulmani. L'idea di questo viaggio in Namibia è nata a mio marito, perché lui è stato sempre molto appassionato dell'Africa, se ne è innamorato con un primo viaggio in Kenya che ha fatto quando era ancora ragazzino e quindi sognava di tornarci da tanto tempo e da qualche anno mi proponeva un viaggio un po' particolare, se vogliamo anche nelle modalità di svolgimento, perché mi proponeva di campeggiare in Africa. E io non ero del tutto d'accordo nella fase iniziale, un po' temevo le scomodità, io sono una gran comodista, però alla fine ho deciso di abbandonarmi a questa sua idea. Devo dire che oggi sono tornata da 4 giorni, non soltanto non lo rimpiango, ma lo rifarei e lo consiglio. E lui ha scelto la Namibia perché aveva, diciamo, si era informato, aveva l'idea di una nazione molto varia nelle proposte, diciamo, delle cose da fare, da vedere, delle esperienze da vivere. L'Africa, mi verrebbe da dire, è tutto fuorché una meta per comodisti, come si definisce Alessia. Eppure, abbandonati i parametri occidentali, c'è posto per tutti. Perché la Namibia non si limita all'esperienza del safari. In Namibia si ha la possibilità sì di vedere gli animali un po' come noi li vediamo su Quark o su Animal Planet, però si vede e si fa tanto altro, perché nella parte meridionale c'è un deserto, si dice che sia il più antico del mondo ed è un deserto rosso, incontaminato, è affascinante in una maniera totale, e quindi si ha l'opportunità di fare una scalata delle dune lì, perché non tutte sono accessibili, ce n'è una, non ricordo mai il numero, se è la 45 o la 49, comunque se ne può scalare una, e poi sempre a piedi si può arrivare alla Dead Valley, che era un letto di un fiume. Milioni di anni fa si è seccato e sono rimaste delle acace secche come fossili, che appunto si sono conservate perché lì il clima è estremamente secco e per questa ragione, pur vecchie di millenni, non si sono decomposte. Ed è uno scenario veramente lunare, direi, quello là della Dead Valley. E quindi mi aveva mostrato delle foto e mi diceva: guarda, c'è anche questo da fare, bellissimo. Poi c'è la possibilità di visitare il villaggio delle popolazioni Himba. I feel like a man of men, born and raised in the Kalahari, watching the clouds thoughts drifting away from my sight and away from my home. Siamo appena partite e siamo già state sulle dune del deserto più spettacolare del mondo, per poi arrivare in un villaggio Imba. Gli Imba sono dei pastori che vivono, sono circa 16.000 se ne contano in Namibia, che vivono nel nord della Namibia, la regione del Cunene, che è questo fiume che divide la Namibia dall'Angola. E loro dagli occidentali sono stati spartiti in qualche modo, perché il confine è quello che hanno alla fine stabilito gli occidentali tra Namibia e Angola, e quindi gli Imba si sono trovati divisi, sono un po' angolani, un po' namibiani, ma gli Imba sono un'unica etnia, in realtà loro non riconoscono nessuna separazione nazionale. Loro si dedicano alla pastorizia e conservano delle tradizioni di vita fortissime. Non, per loro il tempo non è assolutamente passato. E loro, le donne sono famose per la loro bellezza. E le donne non si lavano mai, nelle donne e nei bambini. Si potrebbe pensare che puzzano, in realtà non puzzano, perché loro si cospargono la pelle di una mistura di burro, ocra rossa e cenere. Proprio per questo vengono detti i pelle rossa d'Africa, per via di questa mistura di burro, ocra ed erbe, con la quale si cospargono il corpo e persino i capelli. E a proposito di capelli, Alessia mi dice che a ogni fase della vita di una donna Imba corrisponde una pettinatura. Sono molto vanitose le donne Imba, hanno tutta una serie di regole nella vestizione, nelle acconciature, nell'abbigliamento, perché ad esempio le ragazzine prima delle mestruazioni portano i capelli come se fossero due corni sulla fronte. È una cosa molto particolare, io potrei provare a descriverlo teoricamente, da autrice dovrei essere capace di farlo, in realtà Non ci riesco, perché è un'immagine che può rendere l'idea esclusivamente per via fotografica o meglio ancora di persona. Loro hanno, dopo le mestruazioni, poi iniziano a portare i capelli come riuniti in trecce cosparse d'ocra. E quando si sposano portano poi un copricapo in cuoio fisso alla fronte, e poi portano una collana con una grande conchiglia tra i seni che si chiama un bongoro. Queste, per loro, le conchiglie sono merce preziosissima, le prendono in Angola, e quello è indice di, anzi più che indice, è augurio di fertilità, di prosperità. E personalmente direi che questi, che erano i presupposti principali di questo viaggio, gli animali, il deserto e gli Imba, devo dire che hanno mantenuto tutte le promesse, e su tutti sicuramente l'esperienza della visita al villaggio Imba per me è stata la più forte, perché l'incontro con i bambini, che sono di una purezza estrema, sono bambini che non hanno subito alcun tipo di contaminazione. Vivono in una realtà molto ristretta, che è quella del villaggio. Un villaggio è composto da circa 4-5 famiglie, sono tutte imparentate tra di loro, sono tutte molto numerose, l'età media è 40 anni. I've got to be up on my feet. Well, now. Don't you trouble high and high. Just keep on talking and throwing balls around. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Namibia con Alessia Gazzola. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Alessia Gazzola mi sta portando alla scoperta della Namibia. meta che le è rimasta nel cuore anche se all'inizio sembrava non fare per lei. Lei che si definisce una comodista. Ma grazie alle insistenze del marito è riuscita comunque a partire per far visita a questa parte incantevole d'Africa. Ci siamo lasciate poco fa in un villaggio Imba, una delle cose che l'hanno colpita di più per via delle tradizioni di questa popolazione seminomade, dove le donne hanno la pelle cosparsa di unguenti rossi e i capelli acconciati in maniera bizzarra. E a proposito di capelli, i bambini del villaggio sembrano essere molto curiosi per quelli di Alessia. Quindi vivono in questa loro realtà, è una dimensione parallela, è un mondo che continua, una vita che continua a scorrere in una maniera totalmente indipendente da noi e da tutti i nostri piccoli grandi problemi occidentali. E quindi questi bambini hanno una curiosità del diverso che è commovente, che i nostri non hanno. Loro sono ad esempio curiosissimi dei capelli. Quando loro vedono dei capelli lisci, loro non resistono alla tentazione di toccarli. Per me l'esperienza è stata bellissima. Loro hanno iniziato a toccarmeli e mentre me li toccavano, cercavano di cavare delle trecce, mi cantavano delle canzoncine che a me ricordavano molto delle ninne nanne. Allora a me piace pensare, naturalmente non ne ho nessuna conferma reale, che quelle fossero magari delle ninne nanne che le mamme cantano a loro mentre acconciano loro i capelli. E loro facevano lo stesso con me, perché poi nel momento in cui tu scendi dal fuoristrada loro si avventano in massa, sono 10-15 bambini, te li trovi tutti attorno e non hanno voglia di fare altro che di giocare, di scoprirti, conoscerti, toccarti, e questa per me è stata l'esperienza sicuramente più bella di tutto il viaggio, che lo ha reso speciale. E che porterò davvero dentro per tanto tempo, per tutta la vita probabilmente. Lasciamoci alle spalle questa immagine così tenera tra i bambini per dirigerci in mezzo ai leoni. Fortunatamente niente scene di caccia, solo amore nella savana. E invece dei leoni abbiamo visto scene molto simpatiche, ce n'è stata una ad esempio, io lo chiamo il triangolo dei leoni, perché erano due giovani maschi che avevano litigato fra loro per una donna, per una femmina, e uno dei due chiaramente aveva avuto la meglio e quindi aveva avuto la sua opportunità con la femmina, però l'altro non pago, era rimasto a circa 5-6 metri di distanza e osservava la scena nella speranza probabilmente di poter avere la propria di opportunità, e quindi mi è sembrato molto simpatico. Poi alla fine del rapporto tra i due leoni lei è rimasta pancia in su con una zampetta sollevata e nella savana dorata, i leoni dorati si mimetizzavano a loro volta e si vedeva soltanto questa zampa della leonessa che emergeva come un ramo dalla savana, tant'è che io all'inizio pensavo che fosse appunto un pezzo di legno, e invece poi guardando bene la scena era quella che vi ho descritto ed è stata forse la più simpatica, perché poi per il resto si è visto davvero di tutto, e vedere e fare l'esperienza del safari mi ha reso del tutto intollerante verso zoo e circhi, e quindi forse questo non lo dovrei dire, magari non è nemmeno politicamente corretto, però credo che non potrò mai più andare né in uno zoo né in un circo, e quando avrò figli verosimilmente non li porterò, perché penso che sia una grandissima ingiustizia, ma per quanto possano essere tenuti bene nel rispetto dei diritti degli animali, ugualmente la cattività non è comunque un rispetto del diritto degli animali, e quindi il safari mi ha lasciato questo. Bobo, si da di e bobo, si da di e bobo, ai guarda di e bobo, ammazza da una bobo, e bobo, bobo, bobo, si da di e bobo. Guarda di e bobo, e bobo. Il viaggio di oggi è anche un safari emozionante, ma non solo. Poi l'esperienza del deserto, quello è stato splendido, soprattutto perché nella totale assenza di inquinamento luminoso nella zona del deserto è possibile osservare il cielo, cioè il vero cielo, e quindi un tappeto assoluto di stelle così fitte. Io non lo immaginavo, in realtà mio marito una cosa del genere me l'aveva più o meno già raccontata, soltanto che io credevo che lui fosse molto esagerato, e in realtà no. Se io dovessi fare una scaletta delle cose che mi hanno colpito, sicuramente il cielo della Namibia io lo metterei ai primi posti, perché è una cosa abbastanza nota, nel senso che molti astronomi vanno a studiare astronomia in Namibia, appunto perché pare che ci siano dei punti di osservazione unici in tutto il pianeta, e devo dire che anche senza nessun tipo di attrezzatura particolarmente avanguardistica è possibile semplicemente con i nostri occhi vedere uno spettacolo entusiasmante. Si vede la Via Lattea, si vedono stelle che chiaramente nell'emisfero boreale noi non vediamo, ne vediamo altre per carità, però la verità è che il più delle volte i nostri cieli sono neri, e invece lì è possibile a notte fonda vedere le sfumature ancora del blu e tutta questa luce fortissima irradiata chissà quanti milioni di anni luce fa, questa stria della Via Lattea che poi a me all'inizio sembravano nuvole, invece no, guardando bene è questa nebulosa di tante piccole stelline che creano questo effetto. E devo dire che è stata una delle esperienze che mi ha colpita di più, e l'abbiamo fatta appunto nel deserto. Beh, il deserto è anche l'esperienza del cielo che lo ricopre, un cielo carico di stelle, lo stesso cielo sotto al quale Alessia e il marito hanno dormito. Sì, perché il campeggio è stata la formula che hanno scelto per il viaggio, un modo per vivere l'Africa senza filtri, come mi spiega lei. Devo dire che poi alla fine campeggiare è stata in sé un'esperienza davvero bella, io non l'avevo mai fatta, magari tanti di quelli che ci sentono sono abituati a campeggiare anche qua in Italia, invece devo dire io come esperienza non l'avevo mai fatta. Io ho provato un anno quando ero piccolina a fare gli scout, o meglio mia madre mi aveva iscritta, ma l'esperienza era stata del tutto fallimentare. Quindi io veramente temevo il peggio. In realtà è stato splendido, io sogno la tenda adesso, perché l'albergo è un filtro tra noi e il luogo che stiamo visitando. L'essere in tenda mi ha consentito di eliminare questo filtro. L'essere in tenda non ti dà un luogo di... non ti dà un luogo in cui staccare o un luogo per goderti un po' di fresco, perché del resto in Africa fresco non ce n'è, e quindi senza questo fresco, senza questo filtro, tu sei schiaffata nel territorio e lo devi imparare a conoscere e ad amare o ad odiare, perché non è che un viaggio debba avere necessariamente un esito favorevole di innamoramento del luogo in cui si è stati. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Namibia con Alessia Gazzola. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. In tenda in Namibia con Alessia Gazzola. Tra la pelle rossa delle donne Imba e la curiosità dei loro bambini, l'ocra delle dune del deserto e il blu terso del suo cielo. Tra le immagini indelebili, anche quella di un leone che ha appena lasciato una leonessa soddisfatta, coricata sulla schiena con una zampetta alzata. Questa è l'Africa. Riprendendo Kapuscinski, la mia compagna di viaggio mi vuole leggere una sua frase per descrivere questo continente. È tratta da Ebano, che è uno dei suoi libri più belli. Questo libro non parla dell'Africa, ma di alcune persone che vi abitano e che vi ho incontrato, del tempo che abbiamo trascorso insieme. L'Africa è un continente troppo grande per poterlo descrivere. È un oceano, un pianeta a sé stante, un cosmo vario e ricchissimo. È solo per semplificare e per pura comodità che lo chiamiamo Africa. A parte la sua denominazione geografica, in realtà l'Africa non esiste. Questa secondo me è una frase che davvero dice molto, perché sì, è davvero, oserei dire, un luogo comune, il termine in sé. Esistono tutta questa serie di nazioni che portano sulla pelle, nelle città, nelle strade, delle ferite di cui buona parte di queste ferite l'Occidente si deve sentire responsabile. Esiste poi tutta un'altra serie di ferite che si sono autoinferti, perché l'Africa, le nazioni africane sono le nazioni delle guerre tra etnie e tribù, di quelle guerre senza scrupoli che tuttora continuano. L'Africa non esiste. Interessante come punto di vista. E pensare che io ho la sensazione che esista dentro di me, dentro ognuno di noi, anche senza esserci mai stati. Perché è qui che il nostro respiro si sincronizza a quello della terra e degli animali, e solo qui si sente di appartenere a un unico progetto, a uno stesso disegno, che è la vita. Che dire dell'Africa? L'Africa sono le strade fatte di sabbia e di polvere. C'era un libro che avevo letto, però non ricordo quale, che diceva che l'Africa ha l'odore della polvere. Ed è vero, la polvere ti entra ovunque, io me la ritrovavo pure nelle mutande. L'Africa è l'Africa dei bar, nei piccoli villaggi dove davvero si contano 5-6 famiglie, ci sono almeno 2 bar. Non si deve pensare al bar come il nostro. Loro utilizzano dei nomi molto pretenziosi, ad esempio li chiamano Miami VIP, oppure Our Lucky Bar, però in realtà sono delle casupole che, se va bene, sono fatte di lamiera, se va meglio sono fatte un po' di mattoni a vista, ma comunque sono sempre delle strutture molto molto fatiscenti, con insegne scritte a mano. E questa è l'Africa che io però ho amato di più, perché è l'Africa che io avevo imparato a conoscere attraverso gli occhi di Kapuscinski. È forse l'Africa più vera, quella più genuina. Alessia Gazzola non manca di far riferimento allo scrittore che l'ha fatta innamorare dell'Africa, Kapuscinski, facendomi annusare la polvere delle strade di quel continente che solo per comodità chiamiamo Africa, ma che in realtà non esiste, come sostiene l'autore polacco. Ora è il momento di volare un po' più bassi e di fare un tuffo nel gossip, anche solo per un attimo però. Niente paura, passeremo subito oltre. Perché poi, per esempio, in Namibia esistono delle città, e però quelle che loro chiamano città, come la capitale, Windhoek, oppure come Swakopmund, che è famosa perché Angelina Jolie ha partorito lì a Swakopmund, cioè in realtà sono delle cittadine ad impronta totalmente occidentale, città popolate principalmente da bianchi benestanti, da una percentuale inferiore di neri, ma sempre benestanti. Sono delle oasi, per così dire, nel deserto. A chi interessano possono anche piacere, però devo dire che personalmente non mi hanno dato nulla da un punto di vista delle emozioni. La visita di queste città è stata piuttosto anonima e mi ha lasciata, devo dire, abbastanza indifferente. Le città che a me interessavano erano Utapi, Opuwo, cioè tutte queste città che secondo me parlano della vera Namibia e del suo appartenere a questa terra che non esiste e che è l'Africa, e sono quelle che senza dubbio dimenticherò con grande, grande difficoltà, semmai le dimenticherò. Come dimenticare città con nomi e storie da romanzo d'avventura? Opuwo, che significa la fine, perché è l'ultimo centro abitato prima di addentrarsi nella parte più incontaminata d'Africa, il Kaukoland. E Outapi, dove all'interno di un tronco di baobab hanno costruito niente meno che una cappella e un ufficio postale. La natura è sorprendente da queste parti e l'uomo escogita ogni trucco per sentirsi parte del miracolo. Un po' quello che ha fatto Alessia col marito, decidendo di vivere la Namibia in tenda, un'esperienza che all'inizio può sembrare quasi impraticabile. Allora, apparentemente era molto complessa la faccenda, nel senso che davvero io mi sentivo di andare incontro a un'esperienza ai confini della realtà, senz'altro un'esperienza molto selvaggia. In realtà queste strutture per campeggiare, devo dire che appartengono al governo, e il governo ha investito parecchio, quindi si tratta di strutture molto accoglienti, quindi devo dire che da un punto di vista poi della permanenza non è stata particolarmente pesante. I bagni sono molto puliti, che è la cosa che mi stava più a cuore, lo confesso, e poi c'era anche un'area per cucinare e poi anche per lavarsi i panni, quindi devo dire che l'accoglienza da questo punto di vista tutto era fuorché terzo mondo, vorrei sottolinearlo. Poi io purtroppo non avevo termini di confronto, quindi non so come siano le aree per campeggiare qui in Italia. Senz'altro posso garantire che per una schizzinosa come me queste namibiane erano decisamente tollerabili e anche di più, io direi consigliabili. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Namibia con Alessia Gazzola. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dopo la terra rossa del deserto e il cielo blu cobalto, le dune da scalare e le stelle che si perdono nella Via Lattea, siamo arrivati nelle piccole città di Opuwo e Outapi. È la Namibia e mi ci ha portato Alessia Gazzola con suo marito. L'odore della polvere è ovunque, odore di terra, di natura, di vita. Per entrare il più possibile nella geografia di questo luogo, si è scelta la tenda. Niente filtri con l'ambiente, solo le emozioni che questo continente sa trasmettere, respirandone semplicemente l'aria. Campeggiare in Africa potrebbe sembrare una follia, eppure non tutti la pensano così. Io e mio marito eravamo convinti di fare una cosa assolutamente estrema, e raccontavamo agli amici, no? Cioè, quasi quasi pavoneggiandoci, no? Che noi stavamo andando a fare questa cosa, perché del resto viaggi di questo tipo bisogna farli alla nostra età, che ancora siamo giovani, ancora non abbiamo figli, eccetera eccetera. Dopodiché in loco ci siamo accorti che questo viaggio appunto organizzato, che comprendeva circa 7-8 persone, di questo viaggio ne eravamo i più giovani, e che c'erano due vecchiette inglesi di 78 e 84 anni. E quindi io chiaramente davanti a questa cosa mi sono del tutto afflosciata, perché questi miei presupposti di eroismo sono totalmente crollati davanti invece all'eroismo di queste due donne, che talvolta sembravano quasi morire per la disidratazione, e però andavano avanti, avevano un'energia, una voglia di approfondire, di conoscere, non si perdevano un'escursione, E devo dire che sono diventate le mie eroine personali, ovviamente. Poi c'erano altri tre americani, ma l'età era sempre quella. Mi pare che erano uno 72, 74 e l'altro 76. Quindi, voglio dire, questa per far capire che in realtà poi come viaggio è accessibile a qualunque età, nonostante ci fosse una sorta di clausola nel momento in cui noi abbiamo accettato questo viaggio, che se di età superiore ai 60 anni avremmo dovuto presentare un certificato medico. Senz'altro queste persone l'hanno presentato. E probabilmente come cosa può anche spaventare. In realtà devo dire che il viaggio è un'esperienza che non ha limiti di età, dipende esclusivamente dall'avere un minimo di buona salute e tanta capacità di adattamento, e poi la buona volontà di conoscere e di aprirsi al diverso, senza appunto storcere il naso davanti a possibili carenze igieniche. Ripeto, poi io non le ho riscontrate, specialmente nell'area di campeggio, in una maniera intollerabile, anzi. Anche gli insospettabili si sono spinti fin qua giù. Ripenso alla frase di Kapuscinski, suggeritami da Alessia, con la quale abbiamo cominciato. Sono sempre più convinta che il virus del viaggio esista e che sia una malattia sostanzialmente incurabile. Con l'età non si guarisce, anzi, forse è proprio il passare degli anni che rende la voglia di vedere e conoscere ancora qualcosa di indispensabile, un modo per far scorrere la vita alla stessa velocità di un tempo. The lightning will be there to see me through the darkness. Yes, oh, ain't got no sword. E poi il viaggio non finisce quando si torna a casa, perché i ricordi ci fanno compagnia. Il viaggio finisce e ci lascia una nuova immagine di noi e del mondo, dandoci l'opportunità di fare nuovamente conoscenza con quello che siamo e con quello che siamo diventati. Dunque, io una volta, sempre per rimanere in tema di citazioni illustri, una volta ho sentito una frase di Chatwin: il viaggio non soltanto allarga la mente, ma le dà forma, le dà anche forma. Io trovo che questo sia verissimo, nel senso che io sono anche i miei viaggi, nel senso che tutte le volte in cui io mi sono aperta a qualcosa di diverso, ne ho soltanto guadagnato. Questo vale per tutti i viaggi che ho fatto. Devo dire che io conduco una vita molto spartana, non sono tutto fuorché una persona mondiale. Quindi tutto quello che guadagno va in spese vive e in viaggi. Sono il mio grande vizio, direi che è una bellissima malattia. E quindi ne ho fatti parecchi e sono ben felice di averli fatti, perché io, ripeto, mi sento come sono, cioè sento che molti modi di essere che mi appartengono derivano da questi viaggi che ho affrontato. Immancabile Chatwin per rimettere ordine ai pensieri dei viaggiatori. In particolare questo viaggio alla Namibia, devo dire, mi ha dato molta fiducia in me stessa, perché mi sono sempre considerata una persona comodista con scarse capacità di adattamento, il che confliggeva naturalmente con questo sentirmi una viaggiatrice, una cittadina del mondo. In realtà questo viaggio mi ha insegnato che non è vero, che sono semplicemente dei limiti della mente quelli che ci si dà. In realtà non c'è niente di più bello dell'aprire la propria mente alla diversità e anche alle esperienze insolite, a quelle che non si farebbe né ora né mai per nessuna ragione al mondo. Sono proprio quelle che bisogna andare a fare, non quelle che si sogna da una vita. Per carità, realizzare il sogno di una vita, quello bisogna farlo, però con altrettanta forza bisognerebbe cercare di affrontare proprio quello che non si farebbe mai per nessuna ragione al mondo, perché è proprio quello che dà l'esperienza il rinnovo di tutta una serie di concezioni che poi si rivelano sbagliate, come nel mio caso. Quindi forse questo viaggio più degli altri, forse perché appunto non l'avevo scelto io né come destinazione né come modalità, mi ha insegnato una cosa che in questo momento reputo preziosissima. Per salutare e ringraziare Alessia Gazzola, che mi ha portato con i suoi racconti in Namibia e mi ha messo a parte anche della sua personale esperienza di cambiamento, prendo a prestito le parole di una grande scrittrice, Marguerite Yourcenar, nella quale, alla fine di questo viaggio, mi riconosco più che mai. Ho capito anche il vantaggio dell'immobilità in un punto del mondo. Guardando il passare delle stagioni da uno stesso punto, si viaggia comunque insieme alla Terra. Ma il bisogno del viaggio resta imperioso come un desiderio carnale. E allora ho ripreso ad andare e lo farò ancora, in un modo o nell'altro, finché ne avrò forza. Ora Alessia Gazzola è in libreria con La Lieva, edito da Longanesi.